Gli ascoltatori più attenti ricorderanno certo che nel mio ultimo intervento ho citato il concetto di ozio politico espresso dal Beccaria nel Dei delitti e delle pene al paragrafo 24. Secondo i commentatori, l'espressione non è riferibile ad alcun comportamento preciso ed il fatto che ne venga proposta la punizione con il bando ha stimolato negli studiosi di diritto una ricerca che, in mancanza di una precisa memoria delle premesse del libro, non ha portato ad una definizione univocamente accettata. Beccaria, in apertura del libro, premette di essere fedele al suo illuminato sovrano e alla Chiesa Cattolica. Sviluppa poi le sue tesi giuridiche in un'ottica di utilità per una società così organizzata. Aspettarsi da lui qualcosa di decisamente avverso al potere del suo tempo o al potere in generale mi sembrerebbe perciò del tutto improbabile. Le frasi più significative del testo sull'ozio, per quanti non lo ricordano bene, sono: chi turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, deve essere bandito. Questa è la ragione per cui i saggi governi non soffrono, nel senso di sopportare, quel genere di ozio politico, e prosegue: io chiamo ozio politico quello che lascia alle passioni di opinione tutta la loro energia. Non mi pare di essere un genio affermando che gli oziosi in questione siano quanti, a diverso titolo, fanno dell'opposizione politica o sindacale, tanto più colpevole quanto più riesce a rallentare i progetti dell'illuminato sovrano o di quanti detengono il potere economico. Perché evidentemente il sovrano, in quanto illuminato, è nel giusto qualsiasi cosa dica o faccia, ed opporsi alla sua volontà è di per sé un reato, almeno secondo il Beccaria. Che poi questo accenno rispondesse effettivamente al suo modo di concepire il mondo, o magari sia stato scritto per asseverare la sua dichiarata fedeltà, non saprei, e in fondo neppure mi interessa. Quello che mi preme far notare è che questa impostazione dei rapporti fra chi è il governo e chi non condivide scopi o metodi del governo stesso è tutt'altro che finita col Beccaria. Se torniamo con la memoria a quei 7 mesi dello scorso anno in cui le destre hanno governato l'Italia, ritroviamo questa stessa concezione in termini tanto simili da poter essere confusi con quelli del testo citato. E credetemi, non è un caso. Beccaria, per parte sua, parlava in un periodo storico in cui l'utilitarismo, inteso come corrente filosofica, era ancora di là da venire, e in mancanza di una riflessione più profonda sul concetto di utilità in politica, non ha trovato di meglio che riprendere quell'idea circolante nel mondo classico per cui la realtà è essenzialmente il punto di vista del re e in quanto tale l'unico modo possibile di rapportarsi al mondo. È del tutto ovvio che in questo schema di ragionamento il popolo sia incapace di intendere e volere, una sorta di perpetuo minorenne da guidare in ogni frangente della sua esistenza. In fondo, non può meravigliare che le attuali destre siano così tenacemente legate a quella concezione del governo e della realtà, perché la destra è tale in quanto tende ad identificare le persone con il ruolo sociale che ricoprono, e il popolo, per la destra, è proprio quell'eterogeneo insieme di individui bisognosi di qualcuno che pensi al loro posto.